ci vedremo come che, come dico sempre nella storia, il governo appena eletto potrà prendere anche misure impopolari ma utili per il futuro del paese. Non l'hanno quasi mai fatto, speriamo almeno questa volta. Ci vediamo da te, ci sono di essere. Dietro in sentire, voglia di non ti preoccupare, le prossime 3 ore per te saranno all'interno, mentre saranno bellissime.